detesto questa vita da loser e ti canto una canzone con parole nude e crude. Il tuo cervello che ti illude e ti fa morire dentro, come quando è sereno ma il cielo si copre dal maltempo. Il problema è rialzarsi, invece si cade. Ho chiuso la porta e non trovo la chiave. Ho scelto me stesso al posto di lei, credendo la musica suona DJ. E sono diverso, sono cambiato, più vero, più triste. Mi sono allenato per essere al primo posto. Questo è il risveglio, buongiorno stavolta mondo. Ho scelto me senza guardare in faccia a nessuno, senza la certezza di un roseo futuro sicuro. Non chiedermi il perché e lascia fare chi ti prende per culo. Chi non capisce ti lascia da solo urlare nel buio. E quando dopo la tempesta in cima sarà insieme ai migliori, la piramide che si rovescia restano in basso come dei coglioni. E se la strada ti sembra in salita, vai avanti oppure muori. E la partita con la vita, lei è una coppia e tu scala di fiori. Sputo fuori il fumo e dopo svetto per stasera. Osservo un po' la luna e mi specchio nella parte nera. Quando chiudo gli occhi penso solo a cosa fare, cosa scrivere sul foglio e cercare di spaccare. Traccio la strada del mio percorso e anche se sbaglio nessun rimorso. Faccio le scelte che poi se va male ritornano indietro e mi cadono addosso. Non sarò Scarface, ma quando metto in moto saluta il mio amichetto che poi comincia il gioco. Stavolta ho scelto me senza guardare in faccia a nessuno, senza la certezza di un roseo futuro sicuro. Non chiedermi il perché e lascia fare chi ti prende per culo. Chi non capisce ti lascia da solo urlare nel buio. E quando dopo la tempesta in cima sarà insieme ai migliori, la piramide che si rovescia restano in basso come dei coglioni. E se la strada ti sembra in salita, vai avanti oppure muori. E la partita con la vita, lei è una coppia e tu scala di fiori. Mi lascio gli insulti scorrere addosso con il catrame mo' di giubbotto, usando veleni per stare sedato che offrono sempre la mafia e lo Stato. Trasformati in rospi senza essere principi. Ignoro recensioni fatte da due critici. Voglio arrivare in cima e dire grazie a nessuno, guardarvi in faccia uno a uno e gridarvi vaffanculo. Un pugno al muro con la rabbia, sguardo in basso e piango e penso a quello che ho fatto per te. Ora a ripagarmi c'è soltanto il mio rap. Stavolta ho scelto me senza guardare in faccia a nessuno, senza la certezza di un roseo futuro sicuro. Non chiedermi il perché e lascia fare chi ti prende per culo. Chi non capisce ti lascia da solo urlare nel buio. E quando dopo la tempesta in cima sarà insieme ai migliori, la piramide che si rovescia restano in basso come dei coglioni. E se la strada ti sembra in salita, vai avanti oppure muori. E la partita con la vita, lei è una coppia e tu scala di fiori.